come ho detto io, che se prende, dipende dappertutto, dove, dove c'è la lavoro, felici e bene, perché se no i nuovi è già una cosa faccia in partenza. Non penso che ci sia tutto questo grande coso. Sembra così, però se ripeto le cose essenziali, i microfoni adeguati, cioè a me ad esempio me ne serve un altro di microfono, è quello legato, non è niente, ora me lo ricompro, è un'altra radio che ho preso senza microfono, capito? Guardate sì, che sono i microfoni comunissimi, non hanno questa grande cosa, però eviti di tenere un microfono in mano, sono amplificati, vanno bene, 40 euro, capite? Usare l'ordina e trovare il baga 59, ma è un microfono che al fornitore, al commerciante, le costa 30 euro, capite? 25 euro, 30 euro, allora lo mettono a 49, 50 euro, e tu mi metti un prezzo 40 euro, 35 euro, ma lo giocano tutti, e nella quantità ne prendi sicuramente più lui, perché lì il gioco è caruso, capito? E vendere nella quantità, se quello ne vende 5 in un mese, faccio un'ipotesi a 49 euro, 59 euro perché c'è da guadagnare, perché è sotto operazione, tu quando ne prendi 10 e paghi subito, quanto ne so, 250 euro di microfoni, ok, gli anticipi li paghi, sono tuoi, e tu li vendi a 10 euro in più, capito, a 5 euro in più, l'importante è che li vendi e fai girare i soldi, cosa che ne ha tutti, e qui c'è l'antenna. L'antenna, se tu immagini che l'antenna è la Diamond, di quelle che uso io, UHF e UHF, costa 110 euro per la Diamond, ok? Quindi la migliore antenna in assoluto, io ho 13 anni sul tetto, vulcanizzata, non mi ha mai dato fastidio, anche perché antenne non ne hanno, e sono a innesto diretto. La Diamond però, quindi la casa che costruisce quelle antenne. La GBC vende quelle stesse antenne, che sono fatte dalla Midland, che vende 80 euro. Ma come fai a vendere 80 euro? Tu un'antenna che la fibra è completamente diversa, è trasparente, quindi è completamente diversa da quella che tu compri l'originale della Diamond. La vende 80 euro, quella che c'ho io è la 510, quella grande. Allora, anziché vendere 80 euro, sapendo che è un'antenna non originale, la vendi a 60, certo che la compro di più, no? Anche che vendere una ne vendi 10, nella quantità sempre. Ma perché non è la frega niente, non fanno neanche a fare quelle cose. No, tu devi buoni così, e buoni lo pregio pieno. Poi prendo il contatto, poi se diventa cliente gli fai un altro prezzo ancora. E ti tiene il cliente, capito? E ti inchiappetti un bel po' di gente perché vede che tu lo tratti bene, cosa, magari togli qualche euro in più e la gente viene sempre a comprare la te. Bisogna essere un pochettino formazione sul commercio. Si conferma, però io dico che se ci stai attento a fattura in mano, hai comprato per 50, anziché metterci un ricarico del 30%, ce li metti del 10%, io penso che nella quantità lavori bene, lavori lo stesso, certo non ti fai ricco, però per iniziare si può girare così in denaro. Mi piacerebbe moltissimo, anche perché ho delle bellissime radio d'epoca, quindi fare una bellissima vetrina, una bella cosa, è un numero che mi piace, una componentistica, ma soprattutto cavi, piele, raccordi, raccorderia. Ma io sono stato in fiera 2 anni fa e non ho comprato assolutamente niente, ho comprato raccorderie, piele, cavetti, cioè i cavetti da 60 a 90 sulla trucca, la DCC, ho pagato quello che ho pagato, un euro mi pare. Ma gli ho preso più di 1,20, neanche. A PL? Quelli adatti, no, io non uso riduzioni, perché sono dalle fragate, veramente. Io uso i PL adatti per l'R58, se devo mettere 213 uso quelli adatti per il 213. Non ne faccio io di quelle cagate là, perché ti spiego, perché quelli là, ce lo sai meglio di me, quelli là entrano bene, si avvicinano bene e bloccano, dopo tu non fai altro che saldarlo bene ed escono perfetti, escono. Se tu qui unisci capo di DL con l'adattatore, sono una cagata tremenda, perché giocano dentro, no? Non andano bene. No, non fanno bene, invece bisogna prendere i PL adatti per l'RG58, già mi hai capito che sto dicendo, senza riduzione, perché hanno il coso che abita bene e non si molla più. Sì, ma anch'io per l'RG58 uso quelli, solo che gli ispettori li compro già pronti, certo, ho già preso i continenti già pronti, e quello mi manca, non c'è un amico, che il telefono mi mette anche una busta e mi fa una prioritaria e mi manda, metto mai con le buste gialle e imbottite, capito? Mi mette 5-6 e mi manda, no, non le faccio mai io, ce li ho tutti così già pronti, ma se non mi ha regalato. Beh, e sono con quei due che stai dicendo tu. Sono, questi sono fatti a stampo, sono la ghiera grossa che mantiene, sono fatti a macchina, questi sono fatti bene, capito? Tengono benissimo. Poi anch'io, sia per il cavo grosso che per il cavo fine, uso quelli filettati, non uso quelli a ghiera con la riduzione, che sono tagliati, non fanno massa, non fanno niente. Bisogna fare un lavoro particolare. Io li ho speso, tiro tutto indietro bene la calza, l'ho avvitto bene alla calza, poi la calza, quella che avanza, la taglio bene a misura, all'altezza della attrezzatura del piede, lo saldo e lui è secco, capito? E non è fermo, lo puoi tirare quanto vuoi ma non ne esce. Oppure io uso quelli con la attrezzatura dentro, li uso così io quando li entro bene, e tutto quanto che dentro è perfetto, ma proprio perfetto, che non si, che non va da nessuna parte, se il pezzettino lo saldo bene dentro e non si sblocca più, rimangono fermi, non hanno più problemi, non hanno. Poi c'è un bel di gente che compra quelli, poi ci mette quella riduzione del cazzo, ma ti danno sempre problemi, ti danno. Invece il PL deve, prendi quello là per le 58 con la pietatura dentro, quando si bloccano non si staccheranno mai, non usciranno mai più. Sì, ma è così, soprattutto a cavo esterno che usa la RG58, è meglio usare quei piedi filettati, perché stringono bene la calza, la tengono ferma, se una volta tu le dai lo stagno in punta, il piede si è andato bene. Diversamente con il riduttore si muove la calza, poi si usi, la fa e non va bene, hai ragione, è così, è così. Io ti saluto e vado a drogarmi, che mi ha preso la mia bustina quotidiana e ho bisogno di drogarmi, se no va con male, saluto. Dai, se coincide ci sentiamo stasera, tanto tu essere preso dal lavoro, saluto mio babbo e ci sentiamo stasera. Guarda, sono a casa e ci facciamo le chiacchiere, non c'è problema. Ciao Antonio, grazie del corso e ci sentiamo più tardi. KK. Ciao, ce la risentiamo, dai. Ciao, facciamo più tardi. Ciao. Ciao Antonio, ciao.